che tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare. Mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare. Perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare. Sparano, esplodono le cose, si muovono, esplodono critiche, il perché non è scritto, ma la gente è persa in piccole cose inutili, insomma, perpetuare rituali ideati un milione d'anni fa da una tribù di scimmie rimasti mutati nonostante un millimetro e passa di ottima corteccia cerebrale. Mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa. Non capisco perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare. Non capisco perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare. Troppo di corsa, il motore si ingolfa, per prima arrivare lo devo cambiare, ma la gente è persa in piccole cose inutili, insomma, perpetuare rituali causati da un'estrema e costante gestione leggera dei nostri valori, nonostante due millenni e passa di ottima filosofia e morale. Mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa incazzare, mi fa. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché.